La noche es cabrosa. Su Radio DJ, i mixati dei migliori DJ nazionali e internazionali. Toda la noche. Tutta, tutta la notte. Baila la noche con Radio DJ. Questa notte, alla console della noce scabrosa, Satoshi Tomi, Paolo Martini, Frankie P, Luchino. www.lanocescabrosa.it. Al mixer della noce scabrosa, dal Taitù di Giardini Naxos, Satoshi Tomi. ascoltando dal Taitù di Giardini Naxos, Satoshi Tomi. Yeah. al mixer della noce scabrosa, dal Tai Tu di Giardini Naxos, Satoshi Tomi. Escabrosa. En Radio DJ, la música de los mejores DJ nacionales e internacionales. Stai ascoltando dal Taitù di Giardini Naxos, Satoshi Tomi. We'll be right back. Della noce scabrosa dal Taitù di Giardini Naxos, Satoshi Tomi. stai ascoltando l'Altai Tu di Giardini Naxos, Satoshi Tomi.